L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, da Geneve ti seguiamo. Sei al top. Da Tokyo tutte le mattine mi ascolto il podcast della Zanzara e godo. Luciani, ma ti sei messo a fare i programmi di cucina? Ma vaffanculo pure tu, va. No, caro amico mio, abbiamo registrato un programma tempo fa, qualche mese fa, per così, per promozione di questa azienda. Siamo stati volentierissimi ospiti. Era dopo aver cucinato il coniglio qua, dopo aver portato il coniglio, certo, qui in redazione, certo. Ti ricordi? Sì. Siamo andati dagli amici di Sky e abbiamo registrato un programma di cucina. Ma qual è il problema? Scusa, un ottimo programma, molto avete bello, tutte le ragioni al mondo per mandarmi a fare in culo ogni santissimo giorno, ma non in questo caso. Non in questo caso. Uno ogni tanto qualche cosa di promozione le deve pur fare, sì. O no? Dai. Ma scherzo. Come stai? Tutto bene? Dici a me, caro? Beh, certo, che cazzo dico? Con chi parlo? Con mio nonno in carriola? No, cioè, no, lo so, magari stavi qualche cazzo ragione. Cioè, la tua capacità di interazione in questo programma, arrivati alle 18.35, è bassissima, ma le cose cambieranno. Ma scusa, quando mai hai un motto di tenerezza di chiedere come sto? Questo è vero, questo è vero. Non si sente un cazzo, strozzo, vaffanculo, si sente niente, chi c'è in linea? Donato da Varese, Marco da Mantova, Francesco De Benedetti, che quando mai chiedi come va? E uno si stupisce a un certo punto, no? Allora ti faccio sentire la voce di un genio. La voce proprio mi hanno detto che sotto la radio 24 c'è un piccolo assedio. Piccolo, un piccolo, ecco, molto piccolo, perché questi qua non sono manco capaci di fare una manifestazione seria. Consiglio ai manifestanti: mettetevi il casco per non farvi riconoscere qualora dobbiate arrecare danno alle persone dare consigli. Grazie. A questi qua nel corso della diretta daremo aggiornamenti su come fare la guerriglia. Consiglio: coprirsi la faccia, mascherarsi con dei caschi, non dare consigli, altrimenti la celere vi riconosce, quindi è meglio non farsi riconoscere. Camuffatevi se dovete arrecare danni alle persone e o alle cose. Grazie Capanna, grazie. Allora, vi dico subito, siccome purtroppo questa saga animalista barra nazi vegana continua, basta, lo dico io e lo dicono anche molti ascoltatori, che però nello stesso tempo continuano a inviarci materiale, cose prese per il culo, la Cruciani con la Statua della Libertà col salame in mano, eccetera, eccetera. Allora, vi dico subito, cari amici che organizzate queste manifestazioni, ma un minimo di capacità di portare, imparate da Capanna, no? Avrebbe portato 500 comparse, certo, no? Certo. 500 operai o finti operai per organizzare una manifestazione seria. Operai, sì. Per adesso sono molto pochi, molto. Quanti pochi sono? Signori del Partito Animalista Europeo, sedicente Partito Animalista Europeo. Vabbè, ma quanti sono? Ma non lo so, una quindicina per adesso, una quindicina, molto poche, roba scarsissima, robetta. Il vero genio però di oggi, cari amici, è questo. È un genio che voi probabilmente non conoscete. E prima vi faccio ascoltare quello che dice. Queste persone alle quali viene effettuato un trapianto di mano, quando si masturbano, chi diventa cieco? E qui non c'è ricerca. Dimmi se non è un genio assoluto e totale. La voce mi sembrava quasi di conoscere, ma non vorrei dirlo. Io farei risentire, perché effettivamente la genialità che cos'è? È mettere insieme il trapianto di mani, chissà perché poi il trapianto di mani è un argomento di cui non si parla, ma comunque lasciamo perdere. Il trapianto di mani e la masturbazione. Mettendo insieme queste due cose esce fuori questa meraviglioso, questo meraviglioso interrogativo. Cioè alla fine, me lo faccio risentire dalla viva voce del signor Pedrocchi, che è una persona, un divulgatore scientifico di una certa consistenza. Pedrocchi? Ma, signor Pedrocchi, lo so che il nome non ti dice Pedrocchi. Niente. No, vabbè, è vero, c'è un caffè Pedrocchi, ecco, non cominciare come al solito. Signor Pedrocchi conduce una trasmissione qui, qui alla radio da tantissimo tempo. Alla 24. C'è un sacco di gente che conduce la trasmissione. Bravissimo, professor Pedrocchi numero uno, ma scherziamo. Allora, senti, ma manco lo conoscevi fino a tre secondi fa. No, conosco perfettamente. Risentiamo, risentiamo, vi prego. Cercate di capire la genialità di questa roba qua, è una cosa geniale. Queste persone alle quali viene effettuato un trapianto di mano, quando si masturbano, chi diventa cieco? Qui non c'è ricerca. Beh, effettivamente non c'è ricerca che possa... Ma lui parla sul serio. Però. Sì, perché io ci ho messo un po' per capirlo, capito? Cioè, chi diventa cieco? Quello che aveva la mano prima? Cioè, quello che aveva la mano prima? Cioè, il possessore della mano precedente? Bisogna invitarlo a ospite. O quello adesso? Cioè, o quello adesso? Il trapiantato. Guarda che è una cosa geniale, eh? Cioè, chapeau, chapeau, chapeau. Allora, meno male che non facevano una puntata riparatoria o riparativa, non so come cazzo si può dire. Cioè, beh, dopo sì, la sì. questione riparatrice, Rina, porta a porta, il giorno dopo, no, ma ti prego, segui l'elenco degli ospiti perché è veramente incredibile. Senti, senti. Angelino Alfano, ministro dell'Interno. Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Caterina Chinnici, magistrato, oggi europarlamentare per il Partito Democratico e figlia di Rocco Chinnici. E in collegamento Giulio Francese. Giulio Francese è figlio di Mario Francese, il giornalista della Sicilia. E meno male che non era una puntata riparatoria. Hanno invitato i parenti delle vittime, magistrati, eccetera, eccetera, con un titolo che è questo, no? Il titolo La lunga guerra da vincere contro la mafia. Bello. Una cosa penosa, ma non la puntata. Questa cosa qui di fare il giorno dopo. Perché prima, tra l'altro, Vespa certo, stesso aveva certo, detto: Vespa certo. stessa aveva detto non c'è bisogno di una puntata riparatrice, non c'è nessun bisogno. Invece, il giorno dopo, tutti i magistrati a parlare, in sostanza, di che cosa? Non dell'intervista, delle polemiche, che sarebbe stato interessante, ma del nulla. Grande scontro Gasparri Borsellino, caro Parenzo, Gasparri Borsellino. Beh, amico mio, senti. Io dico che Sabina Guzzanti non l'ho vista sotto la Rai quando Santoro ha intervistato Ciancimino Junior, condannato perché, guarda, non mi interrompa. Ciancimino Junior, figlio di un mafioso. Ciancimino, guarda, è inutile che urla. Andava in televisione per accusare suo padre. Allora, Ciancimino Junior è stato condannato per calunnia e per detenzione di tritolo in casa. È stato condannato perché ha il tritolo in casa e perché è un calunniatore. E anche Ingroia andava in trasmissione a dire che era un'icona dell'antimafia. Stia zitto, per favore, c'è del resto. Santoro, me non lo dice, ma lei sente roba. Poi duello anche Gasparri Barbacetto. Sei un imbecille, se ti sputo di profumo, incredibile. No. Vai. Sì, sì, senti, senti. Sono stati intervistati Michele Greco, che conosco su questa televisione, parli di cose su che questa non televisione, sai. È inutile parli che parli di cose su che non sai, televisione. Perché tu è giornalismo, zitto, tu e la buona informazione, allora, siete come Santoro, il giorno e la notte. Ma tu sei un imbecille, allora. No, però, Santoro, grazie, allora, grazie, Santoro, grazie, tu ti dimostri quello che sei. Tu sulla con queste cose ti dimostri per quello che sei e io non ti dirò, non ti offenderò perché non meriti neanche di essere offeso. In base alla legge vigente, la in legge Sicilia 2004, si dice che se ti sputo ti profumo. Allora, quello gli ha detto sei un imbecille, Barbacetto invece a Gasparri se ti sputo ti profumo. Vabbè. Oh, è ricomparso l'amico Vassallo, quello che mi ha dato del pedofilo, eh. È ricomparso ancora? Vassallo in televisione. Sì, sì, sì, stamattina cercavano pure di chiamarmi a mattino 5. Io manco sapevo chi c'era, c'avevo da fare. Stamattina mi arriva una telefonata a mattino 5. Pronto? Fare, possiamo cose. No, erano le 10 di mattina. Possiamo metterla in diretta, manco senza manco dirmi chi era. Cioè, abbiamo qui un dibattito sugli animalisti. Ho fatto, guardi, c'ho da fare, eccetera, eccetera. Alla fine ho scoperto che c'era il signor Vassallo. Signor Vassallo, il quale, dopo essere stato sputtanato nell'intervista alle Iene, sputtanato, sì, poi nega tutto, no? Non è vero che volevo sputare nel coso. Prima dice le cose e poi se la piglia con chi fa le interviste. Vergogna, Vassallo, vergogna. Poi dice, io fomento le risse, attacco i gay. Io non ne posso più, ragazzi, di questo Vassallo. Cioè, questo Vassallo è un piccolo leader di un movimento quasi inesistente che è il leader? Meta. Ma quale leader? Vabbè, comunque, Vassallo, sentiamo Vassallo, dai. Toni Negri era un leader. Cruciani ha detto a degli animalisti, venite qui, vi faccio fare la fine del maiale. E si è trovato degli attivisti che sono andati, inutile che si lamenta. Cioè, è lui che sfida, fomenta risse, discrimina persone. E una volta attacca i gay, una volta attacca i... No, i gay li ha sempre difesi. Io non l'ho mai sentito difendere i gay. Vabbè, io lo confermo. Stiamo parlando di questo. Io difendo i gay. Non capisce un cazzo, cioè non sa un cazzo e non capisce nulla. Questo è il problema, capito? Non sa nulla, nega pure di aver detto che voleva sputare dentro i panini al salame. È una cosa incredibile. Però, poi c'era anche la Mussolini, senti, c'era anche la Mussolini contro di lui, senti. L'esponente estremista vegano, estremista vegano, cioè 90 animali al secondo muoiono per i macelli, sono estremista. Ammazza, è sciupato. Quanti anni ha? Sciupato, figlio mio. Valerio, mangia un pochino 39. Perché ti vedo sciupato, però ma al di là sciupato? Di cui, quindi ma non fa uno come bello sponsor. Poi grande duello con Cecchi Paone, grande duello con Cecchi Paone, perché parlavano delle capre, cioè perché uno adotta una capra, non so, c'era un servizio sull'adozione delle capre, giustamente Cecchi Paone dice, io adotto i bambini, non le capre, adotto i bambini, è diverso. Io adotto a distanza i bambini, ecco, scusatemi, Marco Biondi che... io adotto a distanza i bambini e non le caprette. Bambini africani. Vabbè, perché la vita non è da rispettare sia per i bambini. Prima i bambini che le caprette. No, la vita è vita. Prima il dolore universale. La morte universale. Non esiste il dolore. Ma il signor Cecchi Paone soffre poverino di più che un agnellino tolto dalla mamma. No, soffro di più se un bambino muore, se muore una capra. Allora, noi non dobbiamo far morire nessuno e non dobbiamo far soffrire nessuno. Cioè, volevo veramente abbracciare Cecchi Paone quando ho visto questa cosa. Volevo abbracciare fortissimo. Prima i bambini e dopo eventualmente le capre. Io aggiungerei eventualmente le capre. Sia lodato il capriolo, sempre sia lodato. La zanzara. Io, guardate ragazzi, non so nemmeno più che cosa posso fare, che cosa non posso fare, eccetera, perché qui sotto ci sono una quindicina di persone che mi stanno ancora una volta rompendo i coglioni. Per carità, c'è purtroppo in Italia, assai, come sapete, la libertà di manifestare purtroppo è estesa anche a piccoli gruppi, no, purtroppo no, va bene così. Chi c'è sotto? Il signor Rizzi, quello che vuole morti tutti i cacciatori, chi c'è? Andro. Eccoci. Chi c'è? Passami sto Rizzi, dai, passami Rizzi, Enrico, dai. Rizzi, ecco, che vuoi Rizzi? Come fosse un capo di Stato. Sì, capo di Stato. Ti passo Mattarella. Enrico, ma scusa, ma che hai fatto? Ma porta almeno 100 persone, non 15 persone, quanti siete? Guarda, ma non serve il numero delle persone. Ma fai una manifestazione seria, non sei capace, non sei capace, non sei capace di organizzare una manifestazione, non sei capace. Ma come sai, non è la prima, ce ne sono state già altre, quindi alla fine... Vabbè, ma che cosa vuoi da me stasera? Perché hai fatto spendere soldi ai contribuenti, la polizia, la Digos, la sicurezza? Vergognati, hai fatto spendere soldi ai contribuenti per le tue cazzate. Ma io non strillo, sono incazzato. Ma che scendo? Ma quando mai? Guarda, io non ti metto le mani addosso, non è che sono uno violento. Quindi, no, non sei violento, ti auguri la morte dei cacciatori e non sei violento, ti auguri la morte dei cacciatori. No, c'entra, c'entra. Ti sto invitando, visto no, che non devi invitare nessuno. E non posso tornare ogni giorno dalla Sicilia. No, tu hai parlato un sacco di volte qui alla radio, non ti preoccupare. Allora, Enrico, tu mi stai dicendo, ma perché? Ma io non devo scendere da nessuno. Che cosa avete scritto là? Che cosa c'è sul coso? Che cosa c'è sullo striscione? Evolviti. Vabbè, mi evolvo, non ti preoccupare, mi evolvo come voglio io, però non come vuoi tu. Non come vuoi tu. Non come vuoi tu. Come voglio io, come voglio io. Invece non mi voglio, voglio l'involuzione, non l'evoluzione, l'involuzione. Sarò padrone. Rimanere in civile. E voglio essere in civile, allora. Voglio rimanere in civile. Rizzi, intanto comincia a pagare la multa al cacciatore che ha insultato. Quando è morto un cacciatore che hai insultato, hai detto che godi quando muore un cacciatore, vergognati. Te lo confermo e ti devi vergognare, però la vergogna non arriva. Vergognati, vergognati. No, c'entra, c'entra, c'entra. Ma che l'invito? Mi spieghi cosa c'entra? Ma chi è quello col megafono in mano? Che poi non è condannato, ho detto che è un decreto penale. Ti devi vergognare due volte per questa cosa dei cacciatori e anche per il fatto di avere fatto spendere. Avere fatto spendere. Devo lavorare, tu non sai questa parola lavorare. Devi raccontare le non c'è tempo per giocare più. Non c'è tempo. Ma Rizzi, non c'è tempo per giocare. Hai fatto spendere soldi ai contribuenti. Hai fatto spendere soldi inutili ai contribuenti. Non puoi portargli giù un po' di Playmobil, dei Lego. Se vuoi ti porto un po' di salame. Ancora no, dicevo che se vuoi ti facciamo portare giù dei Playmobil, dei Lego, che passate un'oretta. No, no, ma guarda, ma noi siamo contentissimi così, stiamo dando. Vi portiamo un libro. Per me va benissimo. Vi portiamo il libro di Napoletano, il viaggio in Italia, ve lo portiamo giù. La gente, guarda. Vi leggete un libro. No, Rizzi, ascoltami veramente. Sì, no, ho capito, Rizzi, però scusami. Lascialo parlare. Tu leggi i giornali, sei una persona intelligente, te l'ho scritto pure l'altro giorno. La gente sta cambiando, la gente sta cambiando. Sta cambiando, lo sai, perché i vegetariani stanno aumentando, i vegani stanno aumentando pure. Bene, ottimo, poi la verità. Bene, bene. Saremo di mondo diventerà tutto vegano, amico mio, il mondo diventerà tutto vegano. No, quello come no, è quello che ci vorranno tanti anni per quello. Per quello purtroppo. Per cui tu ti auguri un mondo però, tutto vegano. Io mi auguro un mondo fatto di pace di amore verso tutti. Pace e amore verso tutti. E ti auguri la morte di un cacciatore, vergognati. Quella è la persona che uccide, ti devi vergognare, Io non avrò mai pietà per chi uccide, che sia un essere umano. E anche per aver Va bene, divertimento. Anche per aver fatto spendere questo, te lo confermo, te lo dirò in televisione, radio. Vabbè, viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia, Rizzi, viva la caccia. Ma guarda, ma se tu continui a dire queste cose, vuol dire che sei non vuoi ascoltare gli altri. Viva la caccia, vai a casa, a casa, a casa di nuovo, torna a Trapani. Torna a Trapani, ciao, ciao, torna a Trapani, ciao. Ma non rompere i coglioni. Puoi dire quello che vuoi, però quando la gente viene che ti vuole affrontare, vuole un confronto pacifico, senza ammazzarti, metterti le mani addosso, eccetera, ti rifiuti. No, non è che mi rifiuto, ho fatto già mille confronti. Ho fatto mille confronti, non rompere le scatole. Ciao. Ma non ti sei confrontato, ma io sono arrivato adesso, ti ho detto scendi. Ciao, ciao, ciao. Ogni volta mi faccio prendere da questa cosa, Davide. Cioè, ma non ascolta. Io vengono qua sotto, che devo fare? Non è che se uno o tutti quelli che vengono possono essere ricevuti. Mandagli giù con Mercurio il libro di Napoletano. Ma che cazzo c'è tra il libro di Napoletano? Questi no. Che... Ma va, si mettono lì e leggono un libro, si rilassano 5 minuti. Dai, e passano un'ora almeno, no? Dai, si mettono lì a leggere un libretto, con calma. Cosimo da Cremona, vai! Cosimo. Ciao Cruciani, ciao Paretto. Sei il primo di questa sera, non mi deludere, bravo, non mi deludere. Sì, tu fai bene, i vegani devono andare tutti a fare in culo. Eccolo. Tu non dovevi scendere col salame, attenzione. Ma con quattro Rottweiler incazzati e neri poi dopo ragionavano. No, amico capito? Mio, allora, io la violenza, Rizzi, la violenza non la sopporto. La terra, perché Rizzi deve andare a zappare la terra. Vabbè, quello può darsi che debba però, andare a zappare la terra. Però quando va a zappare la terra offendi i contadini che zappano onestamente la terra e pagano vabbè, le tasse. Vabbè, adesso lascia perdere. Uno così che rompi i coglioni perché dobbiamo salvare le margherite deve bruciare. No, non no, deve no, fare no, altro. No, sì? Cosimo, non fare no, il pazzo può, pure tu, non dai, può, su. È possibile, dai. Dai, bruciare. Non usare gli stessi metodi. Non usare gli stessi metodi, dai. Ti insulta perché mangi una bistecca. Evviva la bistecca! Vabbè, perché la bistecca poi, è Cosimo, buona e fa bene. Che volevi dire, Cosimo, poi? Niente, che hai delle centraliniste proprio con una voce sexy. Vabbè, amico, mentre mi stavano chiamando mi stava venendo un'erezione. Se andavano avanti ancora due minuti... Però, facciamo un autoerotismo, è veramente incredibile. Ma no, amico mio, va adesso. No, no, giuro su quello. Ho capito, ma non è che pensa, ti puoi mettere... Pensa alla povera... Ti sei arrabbiato con le centraliniste, amico mio! Amico mio! Poi Parenzo, quando ha fatto il motivatore in squadra da incubo, vabbè, ragazzi, adesso però, mondiale. Altre giuro, cose che ci volevo, devi dire, altri arrabbiamenti. Si è arrabbiato pure con Parenzo. Ti sei arrabbiato pure con Parenzo. No, con Parenzo no, guarda, a Parenzo al massimo glielo appoggio molto volentieri. In che senso glielo appoggio? Lei, scusi, ha una vita felice? Sì, io molto. Che vuol dire glielo appoggi? Ah, sei bisex allora. Sì, sì, a me Parenzo, guarda, mi fa morire. Cioè, sei bisex? Da incubo, quando ha motivato. Ma sei bisex o no? Un imprenditore di pompe funebri. Lì è stato geniale. Ma sei fantastico. Bisex o no? No, non sono bisex. E che sono? L'appoggio. Sono eterosessuale, carnivoro, convinto. Convinto. Un po' disturbato. Io ho 22 centimetri di carne fresca. No, vabbè, ragazzi, ma sono le 18.55. Dai, ma lei è proprio stupido. Ma ti sei, non puoi liberare tutto. Io dai. Voglio aprire un fruttivendolo e sì. Chiamarlo. Caco fresco tutti i giorni. Che vuol dire caco fresco tutti i giorni? Che vuol dire caco fresco? Un'idea geniale, proprio. Vedo già la fila fuori. Vabbè. Sì, sì. Vabbè, oppure, Cosimo, ti sei la faccia di Parenzo con l'agenzia funebre. Qui qualcuno bara. Ha della genialità, Cosimo. Ci sentiamo più avanti. Non le chiamerei così. Ma non mi... Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393-71-71-701. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. La Zanzara. Luciani, Giovanni da Hong Kong, devi esportare la tua battaglia anche qui. I vegani hanno assalito un'opera d'arte in Central, imbrattandola con le loro scritte nazi vegane. Il veganesimo è come l'obesità, una malattia dei nuovi popoli ricchi. La verità è che gli animalisti li ha pagati Cruciani. Così tutti ci dimenticavamo dei 200.000 euro e parlavamo d'altro. Cruciani con i soldi di Vassallo, non puttane. Bistecche, filetti, costolette e puttane, cazzo. Amore, a che ora torni stasera? Vedrai, prima delle 8:30 non ci sono, cara. Comunque aspettami. Ah, ok, perché ti ho fatto una sorpresa. Cosa? T'ho fatto l'hamburger di lenticchie con soia. Tu. Giuseppe, cominciano a prendere le distanze. Ora giù duro, finiscili. Zanzara. Mauro da Mantova, vai Mauro. Il problema del parcheggio disabile per me non è mai stato un problema. Io ho il parcheggio disabile regolare dal 2000. Beh, per forza, questo spiega tutto. Ma ascolta, mettimi un questo uccello in bocca tutto. Però questo mettimi spiega tutto, dai. Questa telefonata hai fatto bene questa volta a passarlo. Detto, bravo, Cruciani. Aspetta, Mauro. Questa volta hai fatto benissimo, Cruciani, perché si spiega tutto. Due anni di racconto di Mauro da Mantova alla Zanzara, tutti si chiedono chi cazzo è, chi cazzo è. Si spiega tutto. Bravo, Cruciani. E si capisce. Quando dovevo parcheggiare mentale, e che c'erano e che c'erano i parcheggi disabili impegnati, io non chiamavo i vigili o la stradale. Non era un problema che per me. Che facevi? Io mi appoggiavo con la mia macchina che ha 320 cavalli, sì, mi appoggiavo in retromarcia, la spingevo indietro 8, 10, 12 metri, sì, e poi ci parcheggiavo io. Cioè, che facevi un sfondavi l'altra macchina? Cioè, sono cazzi suoi. Ah, okay, ma sfondavi pure la tua, sfondavi pure la tua, però, amico la, mio. La mia, no, bello, la mia è svedese, la mia è una Saab, fatta in acciaio, non si sfonda. Le Fiat sì, perché sono macchine di merda, ma siccome la mia è in acciaio, la mia non ha mai fatto neanche una piega. Acciaio, io un Panzer, che roba, un calmato. Spostavo i furgoni con la mia macchina, perché la macchina ha 320 cavalli, di spinta ne ha tanta, te lo posso garantire. Sì. Perché la mia di originale non ha nulla, sul libretto ne ha 146, vabbè, tutti d'accordo. Coprono, ce ne sono 320. Solo una volta ho avuto un problema, che un meridionale, un pugliese, mi fa: oh, ci sta morto, ma come te lo traduco? Sì. Chi te è morte è la macchina mia. Sì. E gli ho detto: perché? Qual è il problema? E poi me l'hai spinto dietro. No, sei fortunato, che te lo spinta solo 8-10 metri. La prossima volta te la spingo fino all'ospedale, ok? Ma perché perdi la brocca quando senti Parenzo? Spiegami perché. Perché io lo odio a Marte! Ce lo ammazzeresti? Io sì, ma che con le mie mani. No, vabbè, io ma faccio... Allora, Giuseppe, diffamatore, schifoso. Quel coglione lì, di insultare mio padre e mia madre. Quando ha insultato? Io non me lo sono mai permesso. Diffamatore. Anche se avessi avuto tutti i diritti per aver fatto un coglione. Dai, allora, zitto. Però qui c'è scritto: fuori strada si ribalta sul lungo lago, ferito Michele Colaninno. Michele Colaninno. Beh, e chi è quello lì? È mica sempre il fratello di Matteo? Sì, ho capito, ma si è ribaltata la macchina. Stupido. Che cazzo ne sai che era col trans? Scusa, come dici tu? Ma sei impazzito, sei? Beppe, diffamatore. So, quello che l'ha soccorso col carro attrezzi, che non l'ha divulgata la notizia. Ma io so che aveva su un trans. Caro Parenzo, sono sceso giù dai nazi vegani, amico mio. Sono sceso giù dai nazi vegani. Mi sono un po' camuffato perché altrimenti era la stessa come cosa. Come sei camuffato? Cosa hai mi fatto? Sono camuffato da vecchio anticruciani. Tutto beh, non era difficile camuffarti da beh, vecchio. Beh, no, come no? Cioè, i capelli bianchi, tutto, i baffi. Cioè, dopo un po' che stavo lì, un signore si è avvicinato, uno di questi signori, e ha detto: ma forse tu sei... E insomma mi ha strappato addosso i baffi, voleva strapparmi la cosa, era il solito del fronte animalista. Lì poi è arrivato anche Rizzi, mi sono messo a discutere, no, in mezzo a 10-15 persone. Non siete in grado di organizzare una manifestazione seria, questo è il punto. Amici nazi vegani, non mi fate paura, organizzate una bella manifestazione come direbbe Capana negli anni 70. Un momento, mi avessero chiamato avrei dato istruzioni in merito su come fare, ad esempio. Innanzitutto la divisa antisommossa, zainetto a disposizione. Posizione, casco, bende per coprire gli occhi nel caso di scontro inevitabile con la polizia e con i poteri forti della cosiddetta Radio 24 Confindustria. Assediare un primo gruppo davanti al portone in modo che questi pensino che davvero il gruppo è unico e davanti al portone. Un altro, intanto, mentre c'è un po' di gazzara davanti al portone, da dietro esatto. Entrano dentro la sede del cuore del potere della Confindustria iniziano a fare zizzania all'interno. Lancio di oggetti, ovviamente. Ma non occupazione dell'auditorio. Non sono capace, Capanna, non sono capace. Cioè, sono dei pivelli del nazi veganesimo. Ammazzassero, come dice Montanini, avessero il coraggio di ammazzare Amadori. No, signor Amadori, sì, signor Amadori. Ma non si può se hanno le palle, lo ripeto per l'ennesima volta, sarò ripetitivo a questi. I signori nazi vegani che rompono i coglioni, poi davvero cambiamo argomento. Dopo ma è una persona per bene. Dopo aver sentito anche, Amadori, dopo aver sentito anche le calunnie, secondo me, di Mauro Damantova, dopo aver sentito le calunnie, calunnie di Mauro Damantova, secondo me. Allora. Secondo me le calunnie sulla questione del trans, eccetera, totale, eccetera. No. Imbecille. Allora, dovrebbe avere il coraggio, se hanno le palle, di essere rivoluzionari fino in fondo, come dice Montanini, andare dal signor Amadori, fare toc toc toc, lei Amadori, sparare. Questo dovrebbero avere il coraggio di fare. Ovviamente è una cosa orribile, non me lo auguro. Adoro il signor Amadori, i suoi parola, polli pure. Parola Gianfranco Amadori. Esatto, adoro i suoi polli. Però se hanno le palle, siccome considerano quello un assassino di polli, eccetera, eccetera, dovrebbero avere il cazzo del coraggio di bussare alla porta, lo ripeto per l'ennesima volta, imbracciando un fucile e sparandogli in fronte. Questo è il fronte animalista vero, non quei quattro peracottari che abbiamo visto qua in questi giorni. E basta. Se avete le palle, fate le manifestazioni serie, no? Il fronte animalista. giusta, il movimento, il Meta, e l'altro che cos'è oggi? Il partito animalista europeo, con questo signore di Trapani, Rizzi, con gli occhialetti eccetera, che sostiene che i cacciatori sono buoni solo morti. Ma dai, su, e dai, come direbbe il mugolo, dai. Mario da Modena, vai. Vai, dimmi Mario. Ciao Cruciani. Due domande volevo fare a quei signori di sotto. Sì. La prima, ma lo sanno che l'uomo è nato l'uomo preistorico, io sono uno storico, è nato raccoglitore e cacciatore? Sì, vabbè, lo sappiamo, però guarda, abbiamo esplorato ormai in questi giorni, abbiamo esplorato tutti, ma davvero tutti. No, la cosa più importante, scusa, non l'ha mai chiesto nessuno, ma quando questi vanno in macchina, ammazzano i moscerini. Sì, l'abbiamo detto 40 volte nell'ultimo anno, guarda, stiamo diventando quasi noiosi, per fortuna il pubblico ci conforta, però stiamo diventando quasi noiosi perché le ho veramente dette tutte, cioè me le hanno suggerite tutte. Però è vero, hai ragione, ti devo confermare questa cosa, ammazzano un sacco di moscerini. Lo sai che mi ha detto uno prima? Lo sai che mi ha detto uno prima? Tu devi adeguarti a un mondo che sta cambiando. No, ma veramente, guarda, io ti giuro, devi adeguarti a un mondo che sta cambiando. Ma io guardo, veramente il mondo non deve andare per forza come dici tu. Sì. Ti devi adeguare. Ma che mestiere fanno questi qua? Cosa fanno da star di sotto? Probabilmente non fanno un cazzo. Probabilmente non fanno questo cazzo. Nulla di nulla, non fanno un cazzo. Non fanno niente. Ciao amico mio, Marco, provincia di Napoli, anzi Edoardo da Viterbo, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Mi senti? Sì, vai, dimmi. Volevo dire una cosa, volevo parlare della Boschi, però prima devo dare un rapido flash che secondo me non ti devi confrontare alla pari con sta gente, con Vassallo, con Scanzi. Vassallo, ha ripetuto, ti porto le registrazioni. Ma registrazioni di cosa, Vassallo? Di che non c'è nessuna registrazione di nulla. Mi hai dato del pedofilo, io ti leverò fino all'ultimo euro. Bravo, fossi, ti voglio levare fino... Non bisogna nemmeno più dirlo. Se però ho adesso... veramente, se lo giuro su chiunque, io non vado fino in fondo a questa cosa qua, solamente su quella frase là, il resto non mi interessa. Okay. Il resto può dirmi quello che vuole. Okay. Gli tolgo quanto è vero il Dio, gli tolgo fino all'ultimo euro. Tutto. Vabbè, che vuoi? Insomma, basta confrontarti alla pari con sta gente, numero uno. Numero due, ma dimmi un po', ma sulla storia della Boschi, cioè, sei sempre della stessa opinione che si doveva dimettere? Adesso, dopo i nuovi risvolti. Non lo so, io non ho detto che non si deve dimettere. Io, francamente, devo dirvi... Ho detto che si deve dimettere. No, io ho detto, guarda, secondo me, per quello che è successo, per come soprattutto il Partito Democratico o i suoi, come si dice, capostipiti, no? i suoi fondatori, i precedenti partiti affrontavano la questione degli avvisi di garanzia, delle inchieste, delle questioni politiche, dunque hanno fatto dimettere un sacco di gente, solamente per quello che uscivo, sì. Però il problema è un altro. Ma è che la signora Boschi adesso, non è più lo stesso. Sì, d'accordo, però la signora Boschi, dato se vogliamo rimanere sulla questione, la signora Boschi è l'architrave del governo, cioè se si dimette la Boschi è come se si dimettesse Renzi, questo è il punto, capito? E per cui è impossibile. Sì, ma il punto è che allora, la Boschi ha fatto tutto il suo mestiere. Cioè quale? Cioè quello di ministro per i rapporti con il Parlamento, gli emendamenti passano attraverso lei, sì. E non vedo perché si la dimette. No, ma infatti, secondo me la questione è diversa, la questione delle banche. In questa questione qua, diciamo che sembra non avere interessi, perché non è che parla lei con quelli della Total, eccetera, eccetera. Cioè, comunque, ascoltare anche questi della Total e delle lobby non è che sia un errore di per sé, ascoltare. Certo, però fatto tutto deve essere trasparente, i rapporti devono essere quasi istituzionalizzati. Cioè, abbiamo sentito i rappresentanti della Total che vogliono questo emendamento, 1, 2, 3, 4, 5 rappresentanti delle ditte petrolifere. Il governo, vediamo, noi no, prenderemo le nostre decisioni. Così deve essere una cosa normale, no? Le telefonate, quelle gemelli che dice adesso. E poi perché se la pigliano tutti con sta Lucia Borsellino? Tu te lo sei chiesto? No. Cioè, c'è una intercettazione in cui si dice che Gemelli vorrebbe vedere morta, sparire Lucia Borsellino. Anche con Fava, ad esempio, che è il deputato di SEL. Perché se la prendono? Perché li chiamano il partito della cosiddetta antimafia, quello che secondo questa cricca bloccherebbe tutti gli appalti, le cose, eccetera. Pure detto secondo questa cricca. Fermi tutti, torniamo subito. Apparenza al massimo glielo appoggio, molto volentieri. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presenta... La Zanzara. Ho capito, quando entro in casa mia di notte devo stare controllato per eccesso di difesa e non posso usare la violenza, mentre quando mi parcheggiano selvaggiamente devo usare la violenza. Bravo Parenzo, sei una testa del cazzo. Mi piacerebbe girasse questa annosa questione all'onorevole Bianconi. Se l'onorevole crede sia meglio la ciccia baffina o la cutenna con baffi. una questione molto importante quella che pone l'ascoltatore. Però Parenzo, io mi farei una domanda: perché passa l'idea che tu difendi i delinquenti che entrano dentro le case? Cioè, io so che non è vero, l'idea perché è più facile per questi miserabili duri di comprendonio che chiamano, presi semplicemente dalla passione e dalla voglia di vedere ucciso chiunque, perché sono armati di fucile, perché passa questa cosa qui. No, sono passa il fatto loro. Che tu in qualche modo sei indulgente nei confronti di delinquenti che entrano dentro le case. Per esempio oggi in un posto che si chiama, credo, Saviano, ma non ha nulla a che fare con Saviano, lo scrittore, vicino Nola, c'è stata una rapina, tra l'altro nella gioielleria di persone che conosco, una rapina molto, molto feroce, in cui è stato ferito un rapinatore donna in una coppia, tipo Bonnie moltissimo. E Clyde. E uno ha reagito e ha sparato a questa. Io non vorrei che questa persona, che peraltro conosco indirettamente, che ha sparato il gioielliere, uno dei parenti del gioielliere, abbia dei problemi. No, ma io semplicemente detto, non applichiamo la legge problema. Che già c'è. Vabbè, applichiamo la legge sulla legittima difesa. Ma è riduttivo. Cambiamo. Se dire applichiamo la legge vuol dire difendere i criminali, ragazzi miei, andiamo a casa alle 19:36, chiudiamo e non ha più senso continuare. Queste persone alle quali viene effettuato un trapianto di mano, quando si masturbano, chi diventa cieco? E qui non c'è ricerca. Beh, devo dire che una delle frasi più geniali, credo, degli ultimi anni che ho sentito. La pronuncia il nostro amico Pedrocchi, che è un divulgatore scientifico da un sacco di anni, e pone una questione fondamentale. Certo, ristretta alle poche persone che hanno la mano amputata e che rimettono la mano, però è una questione fondamentale, cioè la cecità, che è una di queste leggende che si accompagna alla masturbazione, a cosa... cioè si accoppia a chi? All'uomo che qui è stata trapiantata la mano, oppure al precedente? Al precedente, cioè a chi, che però la maggior parte delle volte magari è morto, no? Ma sono problemi. Sono problemi. Io proverei a chiamare, caro David, un personaggio che abbiamo già provato a chiamare ieri, che è quello che ha visto la propria casa alla Spezia occupata da una famiglia. La parola occupazione mi risveglia immediatamente, meraviglioso. Sì, però in questo c'è un'occupazione. Beh, no, non è sempre meraviglioso. In questo caso c'è un signore, pare un disabile, sembra, poi magari glielo chiederemo se risponde a questo maledetto telefono, perché c'è una specie di manifestazione in corso a suo favore alla Spezia. Cioè, questo qua praticamente se ne va da casa sua temporaneamente, va da un parente. Arriva una famiglia, pare di marocchini, occupa la casa, aprono la porta con un non so che cosa, entrano dentro, si piazzano lì e non si possono cacciare. Questo torna, a un certo punto trova la casa occupata. Ma di che stiamo parlando? Proviamo, dai, forza. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera, dica. Come sta, Bolleri? Diciamo, bene, bene, no, insomma. Ma lei ha iniziato uno sciopero della fame? Io ho iniziato uno sciopero della fame 10 giorni fa. Eppure della sete? Eppure della sete, sì. E come sta? Come salute non va tanto bene, sono andato all'ospedale, loro mi hanno ricoverato e ci sono stato, però fino a un certo punto, perché io ho i cani, dovevo starci in poche parole ricoverato proprio, e ho rifiutato il ricovero. Scusi, dove sta dormendo adesso, Bolleri? Io sto dormendo a casa di mio cugino ad Arcola, in francese. Cioè, là vicino a casa sua? No, a 14 chilometri, perché io l'appartamento assegnato ce l'ho qui, cioè dove abitavo. Scusi un attimo, ma io voglio capire una cosa, Bolleri, lei è un invalido, giusto? Io ho un'invalidità, sì, e soffro di depressione ansiosa e di ossessioni compulsive. Allora, lei occupa questa casa da quando? Da 2003. Dal 2003. Che cosa è successo l'altro giorno? Sono andato due o tre mesi da mio cugino, però io venivo sempre a verificare, no? Sì, ma che c'è andato a fare da suo cugino 2 o 3 mesi? Vabbè, fatti suoi. Beh, ognuno fa quello che vuole. È una questione di salute, no, io posso anche dire che ho avuto dei problemi con dei vicini, sì. Ho voluto un po' staccare la spina e andare su fino a Arcola. Sì, fino ad Arcola. E a quel punto lei è tornato a un certo punto, o no? Io sono tornato, no, io venivo a verificare e non era mai successo niente, no? Sì, sì. Un giorno, il 7 di marzo, vengo, sì, e la casa era occupata. Da chi? ed è una famiglia. Lui è italiano, lei è marocchina, hanno tre figli e la mamma della marocchina, cioè. E come hanno fatto a entrare dentro casa? Hanno sfondato? Che hanno fatto? Hanno rotto la porta della una porta finestra del cortile, sì. E sono passati, hanno poi hanno scambiato la serratura, praticamente hanno spaccato tutta una porta nuova. Ma scusi, com'è possibile? Lei ovviamente a quel punto che ha fatto? Ha chiamato i carabinieri, ha chiamato la polizia? Ha chiamato i carabinieri, la polizia, mi hanno detto semplicemente di mettere giù la roba e buttarla giù, cioè dalla finestra, io. Però io come faccio io a buttare la roba da altri che era in casa mia e non è mia? Che è successo dopo? Che è successo? Perché non riescono a buttarli fuori questi qua? E perché questi qua no, perché c'hanno i bambini, c'hanno tre bambini e non vogliono sbatterli fuori, insomma, in poche parole. Se potesse, che cosa farebbe contro questi signori? Io le manderei via, esattamente, come tutte le, cioè, non perché loro sono marocchini o non sono marocchini. Io le prenderei e le manderei via come fanno in certe città. Vabbè, io voglio capire una cosa, i poliziotti, le forze dell'ordine dicono che non si può fare perché ci sono i bambini? Sì. Solo per i bambini? Sì. Ma roba incredibile, occupazione abusiva, c'è pure danneggiamento e altre cose, non si può fare niente. Io non so cosa dire, loro dicono che ci sono bambini di mezzo, sono piccolini, infatti bimbi ci sono, non è? Sì, vabbè, d'accordo, ma uno può dire pure chi se ne frega, no? Io gliel'ho detto, però come certi questori, come fanno a Padova, a Bologna, in tutte le città, e le mandano via. Ma lei che pensa, che le hanno detto, si può risolvere o no? Sembra che si possa risolvere, vediamo la magistratura cosa fa lunedì, insomma. Va bene, amico mio, arrivederci, speriamo bene. Ciao. C'aveva questo qua, la depressione, cos'è che c'aveva? La depressione, non so che altra cosa che poveretto, c'aveva. Poveretto però. No, per carità. No. Adesso tu penserai che io difendo quelli che hanno occupato la casa del signor certo Bolleri. Punto, no, ma non lo so, ma dai, cioè, non lo so, non penso mai di sì. Mai mi sognerei di difendere un abuso fatto da persone che sicuramente avevano bisogno, come quelli che hanno occupato la casa, rispetto a uno che comunque già c'era, aveva diritto e ne ha bisogno. Ma non sono mica matto, Edoardo da Viterbo, dai. Oh, ma quindi sono contento che alla fine hai ammesso che ti sbagliavi sulla Boschi, dai. Arriviamo a sto compromesso, ti sbagliavi, bravo. Senti un po', ma ti voglio dire una cosa, ma non è che... Ma come funziona Coscanzi, siete ancora amici? Non ho capito. Ma Coscanzi, siete ancora amici? Ma chi se lo incula? Dai, basta di parlare di persone che non mi interessano. Dai, su. Ma chi se ne frega? Dai, forza. Vedi che... Ma non me ne frega. Che ti interessa? Scusa, ma che ti interessa a te? Ma pronto? Ma chi è? Ah, è il telefono di mio marito. Sì, il telefono di tuo marito, va bene. Ma sei Cruciani? Dai ragazzi, su, ma volete fare voi volete fare gli scherzi a me? Cioè venite a rubare a casa dei ladri. Venite a rubare a casa dei ladri. Vabbè, ciao, amico mio, via. Giancarlo da Pordenone. Giancarlo, vai. Sì, ciao Crociani, volevo dire qualcosa che riguarda i vegani, no? Secondo me questo è un problema della modernità, della noia, sai, perché io vorrei proprio vedere se nel 1945 c'era al mondo qualche vegano e vorrei scommettere con chiunque. Adesso sembra quasi che sia una noia, delle persone che non sanno come passare la giornata. Bravo, la noia è un elemento fondamentale, la noia è fondamentale. Esatto. Non sanno come passare la giornata e vogliono dare in qualche modo un senso alla loro vita, allora si inventano tutte queste minchiate. Ma ragazzi, io vi voglio leggere una cosa, perché veramente poi siamo, uno dice no, ogni volta stai su questa cosa, però spesso succede che uno si annoia di un argomento, poi ti spunta... un'intervista, una notizia, eccetera, e ti si illumina qualcosa. Tutto. Allora, questo signor vassallo che mi ha dato del pedofilo ha una fidanzata, che fino a qua è tutto normale, che ha 23 anni e credo che si chiami Giulia Arioli. Questa qua in un'intervista alla Stampa di oggi, 23 anni, si è trasferita addirittura a Biella per vassallo, per cui insomma già bisogna avere un certo coraggio, però questa è una battuta che mi posso anche risparmiare. La quale dice no agli abiti di lana e di seta. E vabbè. E vabbè, d'accordo. Però la motivazione è questa. In natura le pecore non sono mai state tosate, dice lei. In natura le pecore non sono mai state tosate. Come se quello che ci fosse in natura fosse necessariamente tutto buono. In natura le pecore non sono mai state tosate. L'uomo non può avvalersi di questo diritto per interessi economici. Cioè noi non abbiamo il diritto di tosare le pecore per interessi economici perché in natura le pecore non sono mai state tosate. E fin qui uno dice basta l'ambulanza, no? Cioè è sufficiente l'ambulanza con due signori in camice bianco. Però sì, poi forse aggiunge... tre. No, due, sì. Due. Ambulanza e due signori in camice bianco. Si aggiunge un altro elemento che è la seta. La seta va eliminato come tessuto. Va la eliminato seta. Come tessuto. Ah, la seta, perché la deriva seta. Da una certa situazione. Durante un prelievo del filo, ogni baco, capito? Ogni baco viene ucciso. Questo è il punto fondamentale. Durante un prelievo del filo, ogni baco viene ucciso. Cioè l'uccisione dei bachi. Radio da Milano, vai. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Ciao. Senti, caro. Io volevo condividere un'esperienza con voi partendo dalla storia del signore della Fettia, insomma, la questione della casa occupata, che è leggermente diversa. Io vivo in un palazzo, diciamo, in zona abbastanza centrale a Milano, dove c'è pure un caso simile, c'è cioè un signore che aveva un'azienda fallita, aveva questo appartamento di proprietà che gli è stato pignorato, ma che continua a non abbandonarlo da anni perché ha dei figli minori. E quindi sono anni che sulle spalle nostre, diciamo, consuma cose condominiali, riscaldamento. Sì, ma guarda che il problema non riguarda solamente gli occupanti marocchini. In questo caso la famiglia era composta da tre marocchini, da una donna marocchina, figli e marito italiano. Non c'entra niente qui. Cioè, no, lo so. C'è lo so, questa diciamo... cosa, perché uno entra dentro una casa, la occupa e non puoi essere cacciato via dopo un secondo netto. Credo che esista solo da noi questa roba qua. Cioè tu entri dentro una casa... Che è una cosa... No, ma dopo due secondi dovrebbe arrivare la forza pubblica a dire: senti, amico mio, mi dai un attimo il titolo di questa casa che hai, un titolo di proprietà, di affitto, non so che cosa, e ti manda via a cacci nel culo. Certo. Invece, non, questa cosa qui non si capisce per quale motivo non può avvenire. Cioè, perché io, allora, se tu. Per i minori. Ma chi se ne frega se tu con tre figli entri dentro? È una norma non sbagliata di per sé. No, è una norma orribile. Poi degenera. No, la norma non è sbagliata in sé. La norma non è sbagliata. Degenera quando c'è già una quando c'è un abuso, però, capito? Sì, Davide, però non fare il leguleio. Il punto fondamentale è un altro. Tu entri con quattro figli dentro una casa, non hai titolo per occupare quella casa. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Né affitto, né proprietà, né che ne so, cioè un diritto che puoi vantare perché c'è un processo in corso. Niente, nulla. Cioè, addirittura distruggi la porta e nonostante questo non ti mandano via. Io vado ai matti. Domenico da Teramo, dai. Domenico. Ciao Giuseppe. Dimmi. Volevo darvi un solo dato, non voglio fare contraddittorio, non voglio è una cosa che succede in America Latina, sì. Favela, più o meno in tutti i paesi sottosviluppati. Nelle favela i figli, i bambini piccoli, non hanno proteine nella loro dieta. Ma non perché sono vegani, perché non hanno proprio per comprarla la carne. Questo, quasi nella totalità di questi bambini, in un buon 70%, dà una carenza nella crescita del cervello, anche fisica. Cioè il cervello non è che non è maturo, è dismaturo. Però adesso io non mi vorrei addentrare in questa roba qui. Io non credo che i bambini che mangiano solamente verdure e non carne possano avere il cervello spappolato. Alcuni dicono che potrebbero avere. No, non parlo del cervello spappolato. Vabbè, spappolato, problemi al cervello. Sì. La denutrizione e la mancanza di proteine in età della crescita, quando specialmente si sta formando il cervello. Ma ho capito, era un modo di dire, caro amico mio, qui non è un convegno. No, ti parlo, io sono stato contatto con gente del ministero là. Sì. E allora? In questo caso, però succede anche in Brasile, che il governo, che ha fatto studi di qualche modo, dunque? Dà proprio proteina, cioè gli dà o soldi o carne a queste famiglie, quando hanno più di 2-3 bambini. E dunque qualcosa, che vuol dire questo? Vuol dire che qualcosa c'è bisogno di proteine, come dicono ma loro dicono che si possono prendere le proteine anche in un altro modo. Vabbè, ciao. Allora, l'altra cosa incredibile in Italia è che hanno deciso di sgomberare quelli che stanno dentro Reggio di Caserta, no? Con gli appartamenti, eccetera. Cioè, quella signora che conosciamo pure noi, che abbiamo chiamato, no? Ti ricordi, dentro Reggio di Caserta, che non se ne vuole andare. Cioè, non se ne vuole andare. A parte che non se ne vogliono andare nemmeno quelli del Partito Democratico, che avete Giubbonari, una vergogna, che devono dare oltre 100.000 euro. Perché non ti pronunci su questa cosa qua? Sì, sì, scusa, perfettamente. A Roma, l'ho detto già quando il prefetto Tronca ha detto, amici, dovrebbe fare uno sfratto esecutivo, non c'è un ma l'ha fatto. Questi però resistono, sai, in Italia con i capelli giuridici uno può andare avanti fino a mezzanotte, fino all'infinito. Mandare l'esercito. Per cui, no, vabbè, se non esageriamo. Però, no, però lo sfratto va fatto, non c'è un modo di dubbio. I signori del Partito Democratico di Vito Giubbonari devono sapere che alla gente, credo, alla maggior parte dei cittadini, del fatto che quella fosse una sede storica del partito non ce ne fotte una stramazza. Se tu non hai pagato e questi hanno un arretrato da pagare di oltre 100.000 euro, te ne devi andare, come diceva Sordi. No, ma poi soprattutto è ancora più grave, se vuoi, rispetto al, se devo difendere qualcuno, difendo piuttosto il poveraccio occupante abusivo che non ha titolo, piuttosto che un partito politico. Ma su questo non c'è ombra di dubbio, un partito politico, per giunta di centrosinistra, di sinistra o di che qualsiasi colore uno voglia, non può blaterare a favore della legalità e poi essere lui stesso nell'illegalità. Quindi tra la coppia che occupa con un bambino e che ha bisogno una casa e un partito politico, è ovvio che preferisco, ma se devo difendere qualcuno preferisco la coppia, no? Il Partito Democratico deve dare i soldi a noi per l'affitto di via di Giubbonari, o no, pagano perché? Domani oppure se ne devono andare. Allora, Alessandro da Milano, dai. Chi è Alessandro? Sì, ciao ragazzi. Allora, posto che non sono raeliano, non so se abbiano ragione o meno e non mi interessa difenderli, ho sentito ieri Parento sfottere il rappresentante dei raeliani di strutture sanitarie e qua. Allora, il tono della trasmissione, questo ci mancherebbe, io mi diverto un casino. Però mi chiedo, se si sfottono i raeliani o il mago Otelma, no? Dovrebbe assumere lo stesso atteggiamento divino, giusto? Sullo stesso piano, se no si incazza. Giustamente anche, sullo stesso piano. Anche nei confronti delle grandi religioni monoteiste, invece in quel caso tutti muti, perché ormai ci hanno fatto assimilare certe stronzate come verità assoluta. No, ma scusi, con me sfonda la porta aperta. Per me i raeliani sono come sono i musulmani, cioè uguale. Capisco la provocazione, ma dite delle sciocchezze inaudite proprio. Ditemi, Alessandro, Davide, chi le scrive i testi? Chi è che le scrive i testi delle battute? No, si possono mettere sullo stesso piano questi che credono negli extraterrestri che governano il mondo con religioni secolari che hanno fatto la storia dell'Occidente e dell'Oriente? Ma di cosa state parlando, ragazzi? Dove vuoi arrivare? Praticamente le cazzate hanno un quorum, mi stai dicendo, no? Ti faccio un esempio, Davide. Strada dei Miracoli, trasmissione di Rete 4 di un mese fa. Prima c'era la tipa che vede la Madonna, no? Hai studio tutti serissimi, Brosio, Paone, ho rispetto. Poi a un certo punto si collegano, no? Con una che dice che parla con gli extraterrestri, e tu che arriva a chiare. Paolo Brosio, pochi minuti prima, diceva: io da piccolino andavo a casa di Don Bosco, c'era la mamma, aveva già le visioni, tutto bene. Poi arrivano gli alieni, che cazzo ti ridi? Poi un'altra cosa, scusa Davide, ma ti faccio presente, ma questa è una curiosità. Per te uno che crede negli alieni è come uno che crede in Dio, uguale? uguale, identico, la stessa uguale. C'è uno che crede negli extraterrestri, è lo stesso di uno che crede identico, nella Chiesa Cattolica, Giuseppe, il Papa, questa roba. Giuseppe, no, ma io ti vengo dietro, io non ti vengo ho capito dietro. Perché uno cammina su, sulle acque o torna zombie e va benissimo. Beh, diciamo, ma che nella storia del mondo hanno avuto un peso diverso. Questo, male che questo lo ammetto, però la base su cui sì. Cioè, quello che dice Alessandro non è del tutto sbagliato. Ma è tutto sbagliato. Cioè, ogni religione ha un qualcosa totalmente irrazionale, no? Di totalmente irrazionale. Giuseppe, un'altra figata, la vuoi sentire? Qual è la figata? Speriamo sia queste prime non lo erano, ma insomma andiamo avanti. Va, David. Allora, guarda, c'è un articolo sull'Unità, 8 agosto 1997, intervista, fantastico, coltissimo, intervista al rabbino Egael Safran, docente di etica medica di Gerusalemme. Vabbè, gli chiedono riguardo la pecora Dolly, ma c'è qualche problema etico? E quello risponde, no, perché la clonazione, l'ingegneria genetica nella Bibbia è presente, noi ebrei la conosciamo da sempre, non c'è niente di strano. Un rabbino dicono allora la stessa cosa. Allora, che cazzo ridi, parente? Cioè, non ho capito. Allora, cosa ragazzi, ridi. Ho capito benissimo. Ciao. Vabbè, un ascoltatore mi scrive: Rina Junior, 8 anni di carcere, vende il suo libro da Vespa, tutti insorgono. Adriano Sofri, terrorista che di anni ne ha scontati 22, vende il suo libro da Fazio e nessuno si scandalizza. Ora tu dirai: no, è una differenza tra Rina e. Ma fondamentale. Certamente è così. Certamente. Se uno però guarda solamente al numero di anni di condanna, no, condanne cosa definitive, ma non è tutto uguale. Ma non sarà. È tutto uguale, ma se uno guarda il numero di anni, beh, ma che cosa c'entra? Io dico ma solo, amico mio. Beh, ma non c'è amico mio, un corno di perché non c'entra perché nulla lì, sulla... perché lì e ci non sono dire altre perché è di sinistra, perché no, è un amico, perché l'ho visto una volta sola in vita mia, quindi non è un amico di niente. Ma come si fa a paragonare in modo così volgare e schifoso un grande intellettuale come Adriano Sofri, che ha ascoltato la sua vena, che ha fatto tutto quello che doveva fare, ma un grande che poi non ha mai ucciso anche nessuno quello, in vita sua, anche quello, ma dico. Che è no, un era bandito era condannato a 8 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, figlio del capo dei capi di Cosa Nostra. Ragazzi miei, va bene, state d'accordo. Proprio nell'iperuranio dei lì, cazzi di israeliani, però. Ma lì non c'è il paragone, c'è la questione della presentazione dei libri. Ma non e c'entra niente i libri, ma... Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. La Zanzara. Bello a tutti gli amici ascoltatori di Padova e di Roma con figli. Andate con Piede di Porco, Dinamite e Grimardelli nelle case di Parenzo e occupate. Poi vediamo se ha ancora il coraggio di difendere questi delinquenti che entrano nelle case degli altri, toccano la loro roba e non possono essere cacciati a pedate nel culo. Addirittura a casa di vorrei Parenzo. Dire a questo simpatico intellettuale della Magna Grecia, nonché a tutti gli altri miserabili che telefonano, una cosa molto semplice. Non ho mai difeso i criminali, ho difeso, a differenza di Cruciani, di Salvini, di tutti questi altri banda qui di Padani e non, il rispetto della legge. Ma sei cioè le leggi si possono anche cambiare. Esiste una legge si sulla legittima difesa fatta dall'ex ministro Castelli, peraltro, Lega Nord, in cui esiste già la legittima difesa. Si possono cambiare. Dico in aggiunta alle 20.02 si possono cambiare che le leggi. Qualora un ladro entrasse in casa e il padrone legittimamente sparasse, è inevitabile che si apra un procedimento per capire la questo, dinamica. Su questo stop. No. Su fine questo del no. Comunicato numero 22 di Parenzo. Grazie. Arrivederci. Belli i comunicati, però potresti metterti un format. No, i comunicati di Parenzo, come ai tempi del terrorismo. È, certo. C'è un sapore, un sapore vagamente sinistro. Comunicato numero 28. Esattamente così. Allora, ragazzi, io non so se vi siete scandalizzati voi, ma probabilmente no, perché ormai siamo diventati tutti molto cinici, almeno io, no? Allora, l'altro giorno al Senato della Repubblica Italiana, che comunque, nonostante quello che succede in Italia, nonostante insomma, la scarsa reputazione che questo Senato ha. È stato abolito poi dai, sì, è stato tra l'altro anche abolito però ancora esiste sono entrati alcuni ultra di calcio per parlare delle leggi sulla sicurezza capitanati da un signore convocati peraltro da alcuni senatori tra cui o ex senatori tra cui anche il signor Vito Crimi del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Legalità tra l'altro Movimento 5 Stelle no, che brandisce la legalità invita gruppi di ultra a parlare della sicurezza negli stadi. Tra questi c'è un signore che si chiama, che io non ho il piacere di conoscere, che si chiama Claudio Galimberti, leader che non di è ultra... il filosofo Galimberti. No, è assolutamente no. Bravo, hai fatto bene a sottolinearlo. Non è il filosofo Claudio Galimberti, leader degli ultra dell'Atalanta, detto Boccia, anzi Boccia. Tutti quanti lo chiamano Boccia. Condannato a regime di sorveglianza speciale per 18 mesi, leggo sorveglianza dalla gazzetta, speciale per 18 sì. mesi, cioè non può uscire la notte dalle 22 alle 6 sì, meno male. Per aver minacciato il capo della Digos locale, ti ammazzo, avrebbe detto, aggredito un giornalista, così leggo sulla gazzetta dello sport, picchiato un ragazzo che lo aveva redarguito mentre imbrattava un muro, ordinato il pestaggio di uno juventino. Molto bene. Questo oltre ad avere una condanna in primo grado, poi per carità sarà anche una bravissima persona, pare che faccia della beneficenza, non lo so. Beh, io davvero lo dico con non lo dico con odio, diciamo, perché non lo se conosco. Passeggio per Bergamo la notte e mi trovo non lo vorresti Boccia incontrare. Davanti cambio strada, ma non lo so, sai che può essere più sicuro incrociare Boccia di quanto possa essere, che ne so, un criminale che magari ti vuole strappare il portafoglio, eccetera. No, ma io sono quasi certo di questo. Comunque, oltre a questo c'è una condanna in primo grado, non so perché cosa, credo a 3 anni e tot, credo quasi 10 DASPO, che sono quei provvedimenti che si danno ai tifosi per non farli più entrare allo stadio, cioè professor tu non puoi entrare allo stadio. Boccia. Ha una serie, insomma, di precedenti che vi ho elencato forse con qualche inesattezza. Bene, questo signore era praticamente il leader. Lo chiamano, come dice Gabriele, mio cugino, il professor sì. Boccia. Chiamalo il professor Boccia. Il professor Boccia. Questo signore, il professor Boccia, sì. Sì. Leader degli ultra dell'Atalanta, sì. Era in Senato e tra l'altro vogliamo sentire un intervento che ha fatto. Sentiamo, sentiamo. A un certo punto in Senato, di fronte ai senatori, c'è lui. Lezio magistrale. Cioè lui con tutti i suoi precedenti che vi ho elencato, è andato al Senato a parlare ai senatori. Uno dei colleghi. È andato a parlare ai colleghi. Tu dici perché ci sono molti pregiudicati. C'è condannato, no. C'è pregiudicato, c'è anche sì, dei qualche condannato. No, ma non fare dai. Spiri, non fare battute facili, dai. Colleghi, comunque ha detto a un certo punto sullo zoo, per esempio, i bambini perché zoo. Devono andare allo stadio? Possono anche andare allo zoo, non è obbligatorio che vadano allo stadio, no? Lì abbiamo il dovere di farvi capire a voi che se volete la coreografia, la tanto amata coreografia, non potete dividere una curva. Ecco perché il popolo laziale e romanista hanno il nostro rispetto e di tutta Italia in questo. Perché la cosa che amano di più se la vedono assolutamente... è disfatta, una cosa che l'hai vissuta da bambino. Ma oggi il bambino, non è obbligatorio che tutti i bambini vanno allo stadio, c'è anche lo zoo, c'è il circo, c'è il teatro, non è per forza obbligatorio che lo stadio è di bambini. Il bambino che nasce con la passione del calcio sicuramente crescerà lì, ma non è obbligatorio che oggi il bambino sostituisca quello che invece vive con la passione. Vabbè, insomma, è andato lì a dire, beh, noi tifosi vogliamo non avere le barriere, bisogna avere i fumogeni, le cose, eccetera, eccetera. Noi ieri abbiamo intrattenuto una piacevolissima conversazione con sì, questo signore, sì, molto sì. piacevole conversazione, consesso, che sì. vi proponiamo. Boccia? Sì? Sono Cruciani, ciao, ti disturbo? Dimmi, Cruciani di che cosa siete? Cruciani Radio 24, ma mai visto a Tiki Taka qualche volta sicuramente? Ah, ho capito, quello lì, a Tiki Taka mancava solo di vedere Bertolaso e quello di Milano, credo io. Bravo, sì, quel giorno che c'è, l'altra volta che c'era Bertolaso, bravo, bravo, bravo. Sì, chi è così? Purtroppo devo stare a casa per forza di cose... alla sera, quindi mi tocca vedere quelle trasmissioni lì ogni tanto. Perché deve... Vabbè, perché mica perché fanno deve stare a casa, professore? Non ho capito. Io devo stare a casa perché c'è la sorveglianza speciale, quindi io sto a casa e vedo le TV, vedo 2 gol, ma non fanno neanche vedere il gol perché c'è il conduttore che continua a rompere le minchia. Ogni tanto accendo solo per le ragazze che sono presenti, sì, che sono belle fighe, sì, e poi non fanno questo. Vedere un gol che sia un gol. Minchia, c'è solo la figa, c'è solo polemica, ti interessa. Sì, l'unica cosa che vale magari è fermarsi. Però è il conduttore antipatico, c'ho il caculo. Il resto la trasmissione è brutta, dai. Poi ma che brutta, è una figata la trasmissione. Ma come si permette? Potrebbe essere molto meglio, credimi. Dici? Se fosse per il popolo. Beh. Già Bertolaso e l'altro non devono esserci. Però e scusami, Boccia. Comunque il conduttore si limita a fare il suo e non guarda quello che piace alla gente. Ma caro Boccia, volevo chiederti, l'altro giorno in Senato, com'è andata? Ti sei trovato a tuo agio? Ci ho avuto tantissime, assolutamente... testate di stima e, sì? e di solidarietà soprattutto di che mi fa molto piacere. Ma da chi solidarietà, scusami? Da persone che non conoscevo neanche, che erano in Senato, assolutamente. Cioè i parlamentari ti hanno omaggiato, diciamo. diciamo che mi hanno tutti rispettato e sono anche un po' contrariati sull'accanimento che è stato fatto sulle mie persone, perché io non ho mai fatto, a parte la passione che ho per la galassia, non c'è nessun interesse. Diciamo che sono un potere senza soldi, come mio padre, povero padre, diceva. Però scusami, scusami Boccia, ma sì, chi è che ti ha detto beh bravo bravo, parlamentari, senatori, chi dagli è stato? Uscieri, dagli stessi uscieri. Ah, gli uscieri. Da quelli che gestiscono, quelli che sì, uno magari ti fa l'asse da Roma, che onore averti qua in Senato, Boccia. Come che onore? Sì. Poi i giornalisti possono dire quello che vogliono, fare articoli che vogliono, ma io porto avanti un ideale e una passione che deve riempire ancora gli stadi. Però scusa, amico mio, non ti sembra strano, adesso non è colpa tua, però è qualcun altro che ti ha invitato, dunque tu non c'entri un cazzo. Ma no, non ti sembra strano che uno come te, che comunque è sorvegliato speciale, ha una condanna in primo grado, ha preso un sacco di daspo, va a dire la sua sulla sicurezza negli stadi? Beh, è un po' strano, amico mio, no? Beh, l'Italia perché cos'è? Normale? Cioè tu dici non è normale che mi abbiano chiamato? No, io dico solo che è giusto che ascoltino coloro che hanno gli operatori del settore, molti attestati di stima, perché abbiamo fatto delle grandissime cose, che di me si guarda solo attestati peggiore. Di stima per aver fatto che cosa? Per aver preso dei daspo, amico mio, ma di che stiamo parlando? Attestati di stima per questo? Ma scusa, professore, dai, mi chiami con numero privato. No, ma che c'è? Ti questa rispondo, è il Sole 24 Ore. È la radio, è il Sole 24 ore. È il Sole 24 Ore, è il numero privato, per forza, è quello aziendale, capito? Che cosa avete da insegnare sulla sicurezza negli stadi voi? Che cosa avete da dire? Ma io penso che siamo l'unico prodotto dove uno guarda il cliente. Clienti non siamo, perché siamo non mai paganti, siamo uno stadio, ma siamo l'unica situazione dove non vengono ascoltati coloro che vanno allo stadio. Ho capito, ma ad uno che ha preso un sacco di daspo, per te bisognerebbe eliminare il daspo? Sì, ma tu stai parlando, vuoi fare questa chiamata per farmi contro me? No, per farmi contro te, sto chiedendo una domanda, non è che come tu dici... Così, per te è tutto così semplice. No, ma come tu dici che quello non è... Una telefonata, fare scoop. Ma che scoop, dai, scoop su, ma che scoop? Da 100 anni hai risaputo, l'arbitro è cornuto... Bello mio, vai avanti te con la tua mentalità, va. Quale mentalità? Ascoltate coloro che amano una maglia, rispettano la città e rispettano le persone deboli. Aspettate sempre quello, rispettate e conoscete le persone prima di giudicarle. No, si rispetta perché si conosce le persone. A me chi mi conosce sa come sono. Chi parla come di sei? Me non capisce come sei? Chi sono. No, come sei? Spiegamelo. Sono uno che aiuta chi sta più male di me e il potere è sempre quello senza soldi. Ricordatelo bene. Boccia, scusami. Bisogna conoscere le persone per giudicarle. Quindi non farmi il domande in terzo grado, che è rispettoso. No, ma ti sto... Ma che è rispettoso? Cioè, io presupposto che passi e mi chiami col numero privato. Ma quello che c'entra, quello è l'azienda, è il numero aziendale che è privato, non c'entra niente. Ragazzo, la centrale l'hai saputo... L'arbitro è cornuto. Vabbè, l'arbitro è cornuto. Calmiamoci un attimo. Scusami. Veramente, Boccia, sono Parenzo. Calmiamoci un attimo. Allora, io la cosa. Basta, ascolta un attimo. Ho detto calmiamoci come un attimo. Come tu fai a. Non sono. Hai visto Bruno Vespa ieri con Prina a porta sul libro. Quando si incazzava, che fai così con me? Bello, stammi buono, hai capito? Ma perché? Stai buono. Che titoli hai per parlare di sicurezza davanti al Parlamento, di sicurezza nella lista? Ma che titoli hai per tirarmi matto a me? Ma che tirarmi matto? Ti sto facendo una domanda. Allora, naturalmente oggi lo abbiamo richiamato, signor Boccia. Bisogna pure stare un po' attenti a questi qua, tra l'altro, a questi signori. Forse sì, perché non sono proprio irenici. Cioè, sono forse più pericolosi non in alcuni casi. Non dico di pace, però... No, no, assolutamente. Sì, Boccia, sono Parenzo, salve, che ieri è caduta la linea il mio collega Radio 24. Ma non si fa così comunque, ma sì, no, no, ma d'accordo, questo è vero, ma volevo chiederti una cosa, sta roba dei bambini che devono andare allo zoo e non allo stadio, ascolta, me la può... Saluto, dai, ascolta, questa roba dello zoo, già, ma ti poni proprio da... saluto. No, scusami, te l'ho detto con grande... E non è che uno che accetta bene il confronto, no? Cioè, signor Boccia... No. ascoltare. No, allora intanto non si attacca il telefono in faccia alla gente, cioè mettiamo le cose in chiaro, signor Boccia, professor Boccia. No, calma un momento. Ti saluto, bello. E poi ascolta, ma con i miei problemi, capisci, dire mia ma, perché non hai modi, punto. Non si chiude il telefono in faccia alla gente. Fatti vedere con l'abuso, che me lo parliamo quattro occhi, ma che è meglio. Calma. Saluto, buona calma, serata. Molta calma, professore. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 00 24, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Beh, siamo veramente al top. La Zanzara. Per fortuna ogni tanto la Cassazione, la Corte di Cassazione decide in maniera giusta, comprensibile e secondo me anche legittima. Allora, cosa è successo? È successo che c'è un libro di testo che viene diffuso nelle scuole, credo, medie, in cui si scrive della Sicilia che cosa? Il potere mafioso ha stabilito sull'isola un clima di violenza che avvelena i rapporti tra la gente, dissangua ogni attività economica e impedisce di governare per il bene della collettività. E periferie anonime, talvolta persino prive delle fognature, sono cresciute in condizioni di massimo degrado sociale, abbandonati a se stessi, quartieri diventati inferni urbani, la criminalità non ha freno. Poi c'è l'economia che si basa sull'assistenza dello Stato, insomma, eccetera eccetera. La Sicilia è un'isola sostanzialmente mafiosa, con relazioni in cui la mafia è molto forte, e anche che insomma è un'isola assistita. Mi sembra una cosa assolutamente normale. No, non so chi ha fatto causa, forse la regione Sicilia eccetera eccetera. Per fortuna si può scrivere in piena libertà, senza che nessuno ti rompa i coglioni, che la Sicilia è inquinata dalla mafia e che è una regione assistita, per fortuna. A questo proposito, caro Parenzo, direi, prima di sentire, anzi no, prima andiamo all'aula. Ah, guarda che il mio cugino Gabriele, adorato, mi scrive: "Az, il traffico mi ha appena fatto evitare incidente su Milano Lecco". No, quindi non voglio sentire queste cose. No, il mio cugino non Gabriele mi ha appena scritto cose. Che no, ma è utile, vedi, nel caso di Gabriele è utile, sta tornando a casa dal lavoro. Il traffico mi ha appena fatto evitare. No, non voglio sentire questo. Me l'ha scritto adesso. Il traffico non serve a un cazzo. Lui non è, evidentemente non consulta i telefonini, tutto, non sta con un manager stimatissimo. Laura consulta. Da Livorno, vai Laura. Sì, bravo. Dimmi Laura, dimmi. Allora, senti, ora ci hai rotto un po' i coglioni, come dici te, sì, no? Perché non hai rispetto per gli immigrati, che se muoiono se la sono cercata. No, non ho detto mai però questo. Però il cacciatore che mai ha... Mai detto che gli immigrati... Ho detto che chi parte sa cosa va incontro. Ecco, questo appunto, ho detto. Se allora. La sono cercata... Allora, no, non ho detto se la sono cercata, allora, è una cosa diversa. Allora, chi ha incidenti di caccia se la sarà cercata, perché anche certo, lui un incidente, sa cosa si aspetta. Certo, assolutamente. Poi, chi va a caccia si può aspettare che qualcuno per sbaglio gli dia una schioppettata. Esatto. Ma uno va a divertirsi, però non è che io esulto. Scappa da un paese in guerra. No, ma no, ragazzi, no, no, no. Ma non è che io esulto però per la morte di un cacciatore. Poi i fucili si uccide, imparate. Beh, si uccide, certo, gli uccelli si uccidono. Ecco, appunto. I cacciatori vanno a caccia di uccelli che non sono gli uccelli. Beh, posso parlare? Beh, sì, se non mi fai replicare fai un monologo. No, poi non ti ribelli a quel deficiente di Mantova che vuole la morte di Parenzo. Vabbè, ma che c'entra? Sì, brava sta signora, brava. Scusami, è umana, è una ma brava veramente persona. Un c'è equilibrio da nessuna parte. No, non c'è equilibrio, c'è brava. Equilibrio. Ha ragione, non c'è equilibrio, signora. No, questo, nessuna, anche questo è vero, ha ragione anche su questo. Questa è una cazzata. Sei un arrogante perché hai vero anche questo? Ma non hai non sei liberale come dici. Che noia, che noia, che grande noia. Poi io sono vegetariana, sono nazi vegana. Mi stai annoiando, Laura? Certo, ti dico qualcosa che non ti va bene, no, il tuo liberalismo finisce lì. Ti faccio parlare, per cui figurati. Bravo, bravo. Dove lo trovi uno che ti fa parlare? Noi alla radio? Siamo animalisti, perché gli animali li puoi anche mangiare, ma gli devi dare una vita degna di essere vissuta, non che li fai vivere in un tormento continuo per poi ucciderli, che è una liberazione. Tormento, ma una vita degna di essere vissuta. Ma io vedo, poi li puoi anche mangiare. Cioè io vedo maialini vivere molto molto bene, poi a un certo punto vengono ammazzati, cioè non è che vivono male. Se vai a vederli dentro gli allevamenti si vede che tu, ma non quella ti è un'altra mai... cosa. Non in alcuni allevamenti sì, in altri no. Cose. In alcuni sì, in altri no, in alcuni sono un po' ammassati. Ma con degli etologi, tu che dici che non capiscono nulla gli animali? Gli etologi. Prova a parlare con qualche etologo. Mai detto, prova però una volta a parlare con un etologo. Mai detto che non capiscono nulla gli animali, mai detto che non capiscono nulla. Sì, hai detto che te non te ne frega niente, sì. Sì. Allora, cara Laura, adesso benissimo, poniamo non te ne frega bene, poniamo fine a questo monologo della signora Laura. Allora, la cosa fondamentale che ho detto è questa e la ribadirò sempre. Sì. C'è una differenza fondamentale tra l'essere umano e l'animale. Cioè noi siamo superiori e gli animali sono a nostro servigio. Chiaro? No, ma tu non lo puoi fare soffrire. Chiaro? Ma quello che c'entra, la sofferenza è un altro discorso. Tu sì. Quanti animali prima, hai? Perché li puoi pure mangiare. Quanti animali hai a casa, Laura? Ecco, io ho il cane e due gatti. E se fossi in campagna avrei uno zoo. Bene, tuo marito che hai dice? Visto che bello, ecco. Questa idea dei cani che vivono con i gatti. Come me, mio figlio la pensa come me. Bene. E i nipoti. E chi vi dice niente? Una nipotina che è la stessa età di tua figlia. Bene, ottimo, ciao Laura, ecco. Nicola da Bari, bravo, vai. Ti conviene tagliare corto, ma tagliare corto non mi pare, 3 minuti che parli. Ti conviene, vai. È 3 minuti che parli. Una volta c'era anche la schiavitù, sì, si potrebbe migliorare anche è la stessa cosa, il trattamento degli animali. È la stessa cosa che è la stessa cosa che ho sentito dai signori qua sotto prima. Allora, questa qua è un'affermazione vergognosa. Cioè, paragonare la schiavitù degli esseri umani, gli africani, eccetera, eccetera, tutto quello che sapete, con la condizione degli animali è una mistificazione, una vergogna assoluta che non fa onore nemmeno al cervello che credo sia abbastanza sviluppato dalla signora Laura da Livorno. Nicola da Bari. Pronto? Sì, dimmi. Ciao. C'è cioè, una cazzata che può dire Vassallo questa cosa qua, una cazzata che può dire cioè, paragonare lo schiavismo alla condizione degli animali è una puttanata inaudita. Nicola, vai. Ehi, Cruciani, senti, io sono un macellaio di carne equina dal 73 circa. Sì. Attenzione, con mio padre. Attenzione che rischi grosso qua. Perché? No, ma in generale rischio. C'è un brutto clima, vecchio. C'è un brutto clima. Ma io sto in provincia di Bari, da noi la carne equina è una religione. Però devo dire che la gente ha capito e io ho ricevuto in questi giorni, che spero siano anche conclusivi di questa polemica che c'è stata, perché veramente non ho più argomenti, perché ho usato tutti gli argomenti possibili. Ma sono ancora sotto questi signori? Non lo so, non me ne frega un cazzo, credo di no, perché erano 4 gatti. E io davvero voglio ringraziare, oggi è venerdì, tutti quelli che hanno mandato, non sai quante sono le aziende, le singole persone. Cosa hanno mandato? Hanno mandato email. Ti sei fatto da mangiare di solidarietà? No, ho ricevuto pochi regali. Hanno mandato email, messaggi di solidarietà. Sono nati gruppi di ascolto tra produttori e all'interno delle aziende, gente che non conosceva prima la Zanzara. Avanti tutta. Grazie a tutti per queste mail. Purtroppo non posso citare nessuno perché queste cose, tra l'altro, non mi piacciono nemmeno. Nicola, vai. Ti stavo dicendo, io faccio questo lavoro credo da 43 per non parlare anni dei circhi. Per non parlare dei circhi, quello ho visto, mi hanno chiamato. I signori dei circhi meravigliosi che vogliono addirittura portare qui, fare una grande manifestazione la settimana prossima qua sotto, bene, signori dei circhi. Bene, viva il circo, sempre il circo, sempre, con gli sempre animali, non senza, come dice qualcuno, con gli animali. Che scherziamo. Se ci volete andare, bene. Se non ci volete andare, non ci andate. Stupendo, ma Nicola, ma vai. Scherzi, la cosa che volevo dirti, io sto in questo in questo campo da circa 42 anni, insieme con mio padre dal 73-74. Sono macellaio di Carniquina e sto in provincia di Bari. Avrò fatto un calcolo, avrò macellato circa 3.500 animali da quando esercito insieme con mio padre. E praticamente, se pensi a una città come Barletta, c'è cioè 120 macellieri di Carniquina. Cioè, io parlo di Carniquina ovviamente. Andrea, buonissima, la carne di cavallo, ottima. Stai scherzando, è il top. Non la mangio. Perché gli ebrei non possono. Aspetta un attimo, Nicola. Nicola, aspetta un attimo, perché gli ebrei non possono mangiare la carne di cavallo. Carne di cavallo, no, ma non la mangerei comunque. Oltre al fatto che è una prescrizione. I cavalli non si possono ammazzare adesso. Puoi fare quello che vuoi. Ovviamente. Cioè, i cavalli non si ammazzano. No, cioè, io non mangio la carne di cavallo. E perché non mangi la carne di cavallo? Uno, perché non è prevista dalla religione ebraica. È vietata. Questo è un primo argomento. Parenzo non sta scritto da nessuna. Io leggo la Bibbia forse più di lui. Devi leggerla non in barese, però. Devi leggerla non in barese. Sta parlando degli ebrei, non dei. Ti ho detto che non puoi. Devi leggerla non in barese, l'Antico Testamento. No, io la leggo in italiano. E allora saprai che non si può. Ma comunque chi se ne frega di quello? Io non posso mangiarla, ma no, non lo mangio. Ho detto che non la mangerei non lo mangerei comunque. Perché il cavallo per me è un'altra roba, ma dopodiché non è che rompo le scatole a nessuno. Guardi, Parenzo, tu caschi male, perché io leggo la Bibbia forse più di te. La carne qui in tutto il testo sacro non viene nominata una sola volta. Se parliamo di rabbino Nicola da Bari, benissimo, dai, avanti. Senti, non mi interessa. Tu puoi continuare a fare quello che vuoi, per quanto. Ma lui non vuole mangiare la carne di cavallo. Non voglio neanche chiudere nessuna macelleria equina. Ho detto Giuseppe, scusa. Ho detto semplicemente che non rompo le balle a nessuno, ma ho il diritto. Parenzo, per quanto mi riguarda, non esiste. Niente, allora stavo parlando con te. Perfetto. La cosa che voglio dirti: qui da noi a Bari, la carne equina in provincia di Bari è una religione. Se tu pensi che è una religione, benissimo. Mangiatela! Ma non, chi ti rompe le balle, me ne frega niente. Puoi mangiare un caravan di carne equina per me, fino a ingozzarti. Puoi mangiare gli sfilacci, puoi mangiare quello che ti pare. Non ti sto rompendo le scatole, non mi interessa. Ma non li mangio perché non posso mangiarli, ma non mi interessa, ma non ti rompo le scatole, mangiali. Ti ho detto che nella religione ebraica non si mangia la carne di cavallo. Tu vuoi mangiarla? Mangiala, chi se ne frega. Tra Barletta e Andria ci sono più di 220 macellerie. Devi dire a sti coglioni di nazi vegani dove cazzo andiamo noi a mangiare. Scusa, vai a dormire a casa di vassallo dopo. Se sì, ce l'ha una casa. Solo Barletta c'ha 120 macellieri di carnequina. Per noi giù Barletta, Andria, Bari, la carne di cavallo è una religione. Una religione, ho capito, Nicola. Abbiamo preso atto che è una religione. Quindi sono a favore. Ho del detto consumo. Che il cavallo non lo mangerei comunque, anche in altri casi, perché mi fa impressione. Perché il cavallo sono è adatto a fare altre cose. Si può ammazzare il cavallo. Sì, che il cavallo è bellissimo. Si usa nella pet therapy per i bambini. Nicola, sei il numero uno comunque. Sì, Nicola, ti abbraccio. No, un attimo, ma quello che voglio dirti, io mangio. Se io dovessi andare, chiudo. Se io dovessi andare, io guarda, sono nella macelleria dal 73 con mio padre. Dal 73? Dal 73 sto nella macelleria. Se io vado in un ristorante, io mangio la carne di cavallo e ti posso garantire, io ho 56 anni, che scopo come un riccio voglio. Scopo e sto benissimo. Ma dov'è la tua Parenzo, non mangiare la carne di cavallo. Tanto a te non serve, Parenzo. Niente, non serve. Cioè, perché si scopa meglio con la carne di cavallo? Ma stai scherzando? E che ne so, mi dai una notizia. Anche se questo, non c'è colesterolo, non c'è niente. Io vado in un ristorante. Io sapevo il ferro, la carne di cavallo. Ma tutta stai scherzando, ci sono le proprietà nutritive che la carne equina. Cioè, tu stai dicendo che la carne equina si scopa meglio. No, io scopo come un riccio, ho 56 anni, non ho bisogno di niente, ti posso garantire. Vabbè, che chiederemo a sua moglie. Scusa, ma c'è un vegano, per una verifica la chiederemo Nicola, a sua moglie. Dov'è? Dice che chiede a tua moglie la verifica. Certo, chiediamo la verifica, per forza. Ma puoi stare tranquillo. Ma no, sto tranquillo fino a quando non ho la controprova. Adesso non è che uno può venire qui a millantare doti. Passi la signora, va. Passa la signora che verifichiamo a questo punto. Non è può dare notizie così a vuoto. Aspetta un attimo, mangia la carne di cavallo che tu ne hai di bisogno. Nicola, dov'è la tua macelleria? Passami la tua moglie che verifichiamo, no, dai. Preferisco non dirla, noi ne abbiamo due. Preferisco non dirla. Siamo. Ma come preferisci non dirla? Che fai? Fai lo spavaldo e poi mi dici non mi dici dove è. Sto a Palo del Colle. Dove stai? Palo del Colle. Vabbè, dimmi dove è Palo del Colle. Ma adesso sei ancora al lavoro o sei a casa? Scusa. Vuoi sapere un'altra cosa? Devi dire a Parenzo che qua, Palo del Colle ha il numero uno al mondo. Di macellazione di agnelli, numero uno. Benissimo. Al mondo. Bene, ottimo. Ciao, l'agnello ciao, mi piace molto. Lo mangiate, passami tua moglie, poi ti richiamiamo. Non c'è, mi dispiace. Oh, che cazzo vuoi? poi da mia moglie, scusa. Vabbè, ho capito, ma voglio parlare un attimo, scusa, voglio parlare per vedere, verificare quello che hai detto, scusa. Se è vero che si scopa meglio mangiando la carne di cavallo, che comunque, guarda, se è vero che tu sei uno stallone come dichiari o no? No, non sono uno stallone, ma ti posso garantire che abbiamo problemi, abbiamo qualche problemino, mi sa. Non ti tira, non ti tira, non ti tira. L'ultima cosa, io l'altro giorno ti vedo spesso anche in TV. Non ti tira, non ti tira. Oh, che cazzo. Oh. Fermo lì. Lunedì ti richiamo, faccio parlare con mia moglie. Ecco, bravo. Senti. Aspetta, fermo che devo dare la pubblicità, fermo. Scusate, io non c'ho un euro. Cosa cazzo me ne frega della borsa? Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Oh, che cazzo vuoi da mia moglie, scusa? Ma c'è ancora Nicola da Bari o no? Sì, ci sono. Senti, dimmi, amore. Io, a me piace molto Nietzsche, Freud, Fromm. Io devo dirti una cosa, lo devo dire. Anche ho visto l'altro giorno. Anche Fack. Nietzsche, Freud e anche Fack, però. Sì, sì, più che altro Nietzsche. A me piace molto Nietzsche. Nietzsche, sì. Senti, Nietzsche. Ma tu sei metrosexual? Io sono? Metrosexual? Ma sarà tuo nonno metrosexual? Ma che stai impazzito? Una domanda che ti ho fatto, non ti ho fatto. Parenzo non esiste, neanche sta Parenzo. No, no, non c'è, non che c'è. Cos'è? Non che sta neanche all'appello. Ma che... tu dimmi la verità. Ma non sei metrosexual? Ma che metrosexual? Aspetta, attimo, sono al telefono con tua moglie, scusami un secondo. Aspetta, sì. Non c'è, coglione, sì. Non c'è mia moglie, guarda che il cornuto è ancora alla macelleria, quindi hai ancora mezz'ora di tempo. Coglione! Certo. Pronto? Scusatemi, Parenzo, è in onda? Io ti vengo a prendere, Parenzo. Ah, lui. Sei ancora al lavoro, vero? Fai con calma, mi hanno detto. Fai con calma, amico mio, fai con calma. Tanto c'è tempo. Se, eh? Sei tu, se sei tu la persona, posso stare tranquillo, non Parenzo. No, no, non sono io, è un se esercito. Sei tu, posso è tutta stare la città. Tranquillo, è tutta la città di Bari, amico mio. Tutta la città di Bari. Cioè, e non sta a Bari, coglione, sta a Pescara, mia moglie. E infatti coglione. La città si è trasferita lì, da tua moglie. Dai. Ma vabbè, dai. Oh, Cruciani! Distrutto, dimmi. Dai, 1-0 del Parenzo. Io dovevo lasciarti e basta. Sì, perché ti conviene fare in fretta. Fai veloce, fidati. No, però io veramente, Nicola, ti voglio abbracciare fortissimo, soprattutto perché sei un macellaio di carne equina e bisogna proteggere questa, assolutamente questa categoria dagli attacchi dei nazi vegani. Sì. Caro Nicola, però vorrei veramente parlare con tua moglie per capire nei prossimi giorni. Guarda, ti richiamo un'altra sera. No, ti ma richiami. Però devo chiudere la telefonata con questo. Con che io cosa, voglio esserti sincero, adesso si incazzerà quel coglione di Parenzo. Io non so perché li chiamano nazi vegani, dovrebbero chiamare comunisti vegani. No, no, vabbè. Che c'entra? No. È più difficile pronunciarlo. Meglio nazi vegani. Lasciamo così le cose. Però Nicola, veramente io credo che sia importante dare anche una definizione geografica dove ti trovi. Dov'è questa macelleria equina che è io vengo? È in provincia di Bari. Il paese come si chiama? Come si chiama il paese? Non avere paura, qui non bisogna avere paura, bisogna andare a testa alta, petto in fuori, testa ma alta. Ma io sono uno di quelli che va a testa alta, ma sti coglioni di nazi vegani, non sai che cazzo ti combinano. Ma non ti preoccupare, dov'è sta macelleria? Abbi fiducia, dov'è? A Palo del Colle. Palo del Colle, bene. Tua moglie quante volte trombi? 5 sicuro, stasera di sicuro. No, cioè 5 a settimana o 5? Sì, a settimana, beh, piano, a settimana. 5 a settimana, buono, sì. 50, quanti anni? 50, io sono del 59, ad ottobre sono 57. Ciao amico mio, ciao Nicola. Ciao, ti voglio bene, ciao. Ma anch'io. Non a Parenzo. Ciao, ma tu sei metrosexual? Allora, caro Parenzo, alle 20.41 è scoccata l'ora di un personaggio che mi appare, dalle foto, da quello che leggo, meraviglioso. Un personaggio meraviglioso. Si tratta, come leggo da diversi giornali, di Maurizio Armanetti, sensitivo delle stelle. Leggo un po' guru, un po' guida spirituale, toglie le influenze negative dalle case dei VIP. Forse è una cosa un po' riduttiva, ma soprattutto è un rabdomante e sensitivo. Ho sbagliato qualcosa, caro Armanetti? Buonasera. No, buonasera Cruciani, tutto esatto, perfetto. Bene. Io sono anche geobiologo, quindi intervengo. Sei anche geobiologo. Che sarebbe la geobiologia, sarebbe l'indagine, si accappa delle case sulla salute. Benessere. Ecco, spiegami una cosa, caro Armanetti, ma è vero che qualcuno, molti VIP ti chiamano perché tu, attraverso la disposizione dei mobili nelle case, capisci se ci sono influenze negative? Spiegami questa cosa dei mobili che mi attrae particolarmente. Sì. Allora, in realtà noi siamo praticamente circondati da radiazioni naturali e artificiali, ma il fatto che siano naturali non significa, come radioattività, che siano tutte positive per il corpo. Sì. Quindi noi interveniamo con questo check-up casa, siamo un'equipe. Check-up casa, bella questa cosa, check-up casa. E praticamente valutiamo le energie e radiazioni naturali, le perturbazioni, quelle artificiali, e cerchiamo di posizionare specialmente il letto dove si sta 6, 8, 9 ore in una posizione neutra, una posizione sana per il buon riposo, la stessa cosa in ufficio. Ma questo qua, voglio dire, succede solamente per il letto oppure è tutta la disposizione dei mobili che può avere influenza sulle radiazioni? La questione dei mobili è una cosa che deve essere ancora studiata, perché è un secondo step, nel senso che il primo step è salvare il corpo dalle radiazioni più aggressive, il secondo step è migliorare l'armonizzazione architettonica della casa, dei mobili, degli ambienti. Il check up casa, quanto costa un pacchetto check up casa? È variabile, se il check up casa viene fatto nella città, che può variare dai 250 ai 500 euro ai 1000, 2000, 3000, 5000 euro se uno deve prendere l'aereo, spostarsi, andare, stare due giorni, se la casa è una villa di 500 metri, se è un appartamentino piccolo. Ti posso mandare a via, scusami Maurizio, ti posso mandare a via Valadier a Roma? C'è un posto che è casa di Parenzo a via Valadier a Roma, non dico il numero, la via molto lunga, me l'hai detto tu più volte tra l'altro, il quartiere Prati a Roma, è interessante come cosa. Parenzo, ti faresti fare un check up sui mobili, sulle radiazioni? Manco morto, guarda, niente, ma che è una cosa seria questa cosa qui, persino credo un Mogol l'abbia fatto, anche altre persone, si possono dire, i VIP che... Sì, certo, non facciamo solo i VIP, facciamo anche le persone normali, e praticamente è una precauzione di sapere se uno nell'ambiente della casa, spostando il letto, sta meglio o sta peggio, perché poi già la persona se valuta praticamente il suo stato di salute da un medico naturale capisce già se può avere un problema di perturbazione ambientale, perché solitamente le terapie funzionano male se non mantiene la perturbazione. Senti, ma uno che è come te un sensitivo, un rabdomante, ovviamente non crede in qualche religione, non credo, o no? Io sono spirituale, che corrisponde a sportivo, perché come penso sportivo. Che le religioni siano come i tifosi. Praticamente si formano delle situazioni settarie l'una contro l'altra, io sono meglio di te, mentre a me piace essere sportivo, andare d'accordo con tutti, quindi si chiama spiritualità. Spiritualità, cioè tu sei non ho capito se sportare. Spirituale sportivo. Spirituale sportivo. È vero che tu hai battuto anche un cervellone elettronico? Spiegami sta cosa, non ho capito. Sì, praticamente in una sfida con un luminare della geologia internazionale, che è avvenuta non per mia volontà. Adesso sarebbe lungo da spiegare. Praticamente è venuta questa sfida tra tutte le macchine della geologia, compreso il cervello elettronico, un computer che chiamano rabdomante elettronico, che è stato confermato all'Università di Pisa, e il cervello del rabdomante. Tu sai, ti ricordi che il tuo cervello è veloce come quello di un cervellone elettronico, non ho capito. Quello che faccio io la scienza lo farà tra 100 anni, ma questa non cioè, è una quello che fai tu in che senso? Quello che fai tu la scienza lo farà tra 100 anni, cioè? Come ricerca del sottosuolo, quello che faccio io come ricerca del sottosuolo, idrica, di acque termali, acque minerali, dimostrato. Cioè non, tu sei più teorico, potente, eh? Più potente di un cervellone elettronico? L'ho dimostrato. L'hai praticamente dimostrato, io ho determinato prima dove era l'acqua termale, l'ho scoperta, poi praticamente questa equipe geologica, dove sono nomi e cognomi, tutto pubblicato anche in inglese, anche in America, perché ho sconfitto dei miti come Piero Angela, James Randi. Cioè tu hai sconfitto Piero Angela in che cosa? L'ho sbugiardato pubblicamente con dei libri, con praticamente pubblicati sia in Italia. Ma su che cosa? Sul fatto che lui combatte, come sai, da tanti anni il paranormale, queste facoltà. Ah sì, certo. Tu l'hai sbugiardato il signor Angela. Questa materia che tratto io del cervello è una qualità della mente, non c'è niente di specifico. spiritico. Cioè tu sei molto, tu da questo punto di vista sei molto potente, sei molto potente, cioè la tua spiritualmente sei molto potente. Io sono molto capace professionalmente dopo 40 anni di studio nel mio lavoro, perché quello che dico lo dimostro prima e poi lo fermo. Ma la cosa in cui sei più capace qual è, caro Armanetti? La ricerca delle acque termali, sapendo distinguere a 500 metri. Cioè tu se riesci a beccare, riesci a beccare dove c'è un'acqua termale. Cioè se uno deve costruire delle terme, un'acqua minerale, io riesco a definire la qualità di un'acqua a centinaia di metri prima che venga fatta la perforazione, e questo è utile per l'Italia, per lo sviluppo di quello che io chiamo per esempio il petrolio ecologico italiano. Cioè tu saresti capace, scusa, tu saresti capace, Armanetti, di beccare un giacimento di petrolio? Certo. Ma perché non ti chiamano allora le aziende, le cose? Cioè, perché non sei, dovresti essere ricchissimo, cioè dovresti essere milionario. Però capisci che C'è un complotto. Quando viene fatta una perforazione petrolifera che costa 10, 20, 30 milioni, c'è tutto un iter, è un meccanismo che praticamente esula. Ti faccio un esempio: l'arabromanzia in Africa salva ogni anno decine di migliaia di bambini da morte certa, perché riesce ad individuare nel 96% le acque potabili. Sì. Che praticamente i rabdomanti, sì, i rabdomanti. Parenzo, tu credi nei rabdomanti? Dalla mattina alla sera, ogni giorno mi alzo e dico: ah, c'è il rabdomante. Ah, benissimo. Vedi, Giuseppe, non è questione di credere, è questione di verificare. Sì, ma ne ho fatto anche uso, guarda. I rabdomanti. Maurizio, io ti abbraccio fortissimo. Hai dei capelli formidabili, da quello che si vede nelle foto. Li hai tagliati per caso questi capelli un po' alla molto rocchettari, no? C'era il vento durante le foto, però ti ripeto. Devo andare con Marco da Bologna, vai Marco. Io quello che dico ciao Maurizio, comunque, sì, lo dimostri. Marco, ciao, dimmi. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Ciao Beppe, ciao. Ho una domanda. Dimmi. Io sono macellaio. Sì. Volevo sapere se i vegani, quando fanno sesso fra di loro, sì, fanno i preliminari. Sì, è una vecchia questione questa cosa qua. No, non è una vecchia questione. Perché? Perché non so se succhiare o lecchiare equivale a mangiare. In quel caso però non è la carne, sì, è la solito discorso, non è carne d'ani. Sì, ho capito Marco, non credo che sia, però comunque va bene, qualsiasi discorso va bene. È una domanda lecita, no? Sì, è una domanda lecita perché in questo caso arriverebbero dentro lo stomaco dei prodotti che hanno un qualcosa di animale. Va bene, Mauro da Milano, vai Mauro. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, dimmi. Volevo intervenire in merito al cacciatore, quello che va a fare safari in Africa. Sì, che abbiamo ospitato nei giorni scorsi, sì, un cacciatore, esatto. Ottimo, splendido. Allora, io mangio carne, non mi interessa. Giustifico anche gli allevamenti perché praticamente concepisco la caccia come un modo che avevano gli antichi per procurarsi da mangiare, quindi oggi si è solo un pochino più comodi e ci sono gli allevamenti. Ma quello che fa quel signore lì è una stronzata. Quel signore lì, per divertimento, per puro divertimento, uccide elefanti che non è che si estinguono. E allora qual è il problema? Non ho capito, che uccidere un tordo va bene, uccidere un elefante no? No, tecnicamente non va bene. Se tu sei contro la caccia, sei contro la caccia. No, ma non è che la caccia al tordo è più degna della caccia all'elefante. No, non è vero. Non sono contro la caccia, perché se un cacciatore decide di andare a cacciare un fagiano e se lo mangia può anche andare bene. No, ma queste sono stupidaggini alla caccia. C'è anche la caccia sportiva, dai, su. No, cioè, dai, una stronzata. Nessuno ormai caccia per mangiare, per sopravvivenza, non diciamo puttanate, dai. Nel mondo occidentale. Però uccidere un elefante, uccidere un leone. Ti fa solo impressione e basta. Questo è il punto. Non c'è nessuna differenza tra sparare un fagiano o sparare un leone, è solo un luogo comune, quello per cui un fagiano non fa niente, invece il leone oddio, perché c'è tutta una leggenda, i film, i ragazzini eccetera. Allora ragazzi, qualcuno ha avuto la buona idea di mandarmi, caro Parenzo, qui la mostro alla telecamera che forse non c'è oggi, una lettera dove c'è una rotola di carta igienica, anzi un pezzo di carta igienica con della merda sopra. Te l'hanno mandato? Sì, lo sto aprendo qua. Tanti amici. Qua. Lo sto aprendo con della merda. La merda. Io l'ho aperto tranquillamente, non voglio toccare la merda perché se è rinsecchito ormai non conta più niente. Però la merda. Io ringrazio questo signore che ovviamente non si è firmato perché è un codardo. Pezzo di carta igienica con spalmata sopra della merda. Spero solo che sia la sua, Spero solo che sia la sua. Beh, non fa grande differenza. Ci sentiamo lunedì. Ciao. Queste persone alle quali viene effettuato un trapianto di mano.